24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8, 16 minuti e 30 secondi, inizia la terza parte di 24 Mattino di questo mercoledì 6 maggio. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Simone Spezia, buongiorno Maria Latella. Buongiorno, buongiorno Simone. Eccoci qua. Avete parlato molto e giustamente della sentenza della Corte Costituzionale tedesca, un ultimatum viene definito un po' da molti e anche una zeppa sull'unità economica europea. Sai cosa mi colpisce moltissimo? Che nel mio consueto spulciare i quotidiani francesi e tedeschi, ebbene, di questa sentenza su il principale, uno dei principali quotidiani francesi, Le Figaro, sì, non si parla né in prima pagina, né in seconda pagina, né in terza pagina. Bisogna andare a pagina 34 per trovare il titolo: l'ultimatum della giustizia tedesca rende più fragile l'azione anticrisi della BCE. Molto così neutro. Sì. Che cosa mi fa pensare questo? Tra i maggiori beneficiari degli acquisti di titoli di Stato da parte della BCE siamo stati noi. Questo lo sappiamo perfettamente. Anche il fatto che in queste settimane la Francia con Macron è stata la capofila del gruppo dei nove, tra i quali ci siamo noi, la Spagna, che chiede con forza il recovery fund, che chiede con forza insomma un impegno serio sul fronte economico da parte dell'Europa. Eppure i giornali francesi questa sentenza importantissima l'hanno tenuta molto bassa, pagina 34. Sì, da dire che ci sono in questa sentenza della Corte Costituzionale tedesca, lo ricordiamo ancora agli ascoltatori, che dice che la BCE dovrà dimostrare che il programma d'acquisto di titoli non è uno strumento di politica economica, è parzialmente interlocutoria, nel senso che dà tre mesi di tempo alla BCE per dare delle spiegazioni. È comunque una sentenza che non tiene conto della parte, per così dire, Covid, no? Della parte straordinaria, per così dire, Covid, ma della risposta immediata alla crisi. È un messaggio molto chiaro. Se in tre mesi le rassicurazioni, chiamiamole così, che dovrebbero arrivare da Bruxelles, dall'Unione Europea, non saranno abbastanza convincenti, la Bundesbank se ne va. Sì, dovrebbe. Da quantitative easing sarebbe un segnale per i mercati molto importante. Veniamo alle vicende italiane. Più avanti nel corso della trasmissione affronteremo il tema del turismo, lo faremo col presidente dell'ENIT, col sindaco di Firenze, e se avete qualche idea su come potrà andare, su come andrà quest'anno, su che cosa succederà, il 349-238-6666 per gli sms e per i messaggi su WhatsApp, anche audio, le vostre voci sono benvenute, oltre che l'800-24-0024 per intervenire in diretta. E però iniziamo dalla politica e iniziamo con Vito Crimi, che è il capo politico del Movimento 5 Stelle. Buongiorno Crimi e benvenuto ai nostri microfoni. Eccoci. Buongiorno a lei, ascoltatori. Maria, prego. Buongiorno Crimi. Senta, la prima domanda che le faccio nasce dalla lettura, anche qui, dei quotidiani che questa mattina fanno un po' di retromarcia, non tutti ma quasi, e riprendono quanto il Sole 24 Ore con Lina Palmerini aveva scritto ieri, vale a dire: se mai si arrivasse a una crisi dettata da condizioni economiche che vanno malissimo, il Quirinale sarebbe intenzionato a andare a elezioni perché vede difficile la possibilità che si crei un'altra maggioranza. La domanda è secca. In caso di crisi, secondo lei, il Movimento 5 Stelle da che parte si schiera? Nuove elezioni o governo di unità nazionale? Non c'è una, non sia lungo. Da che parte state? Ma è molto, molto secco. Non può esserci un altro governo oltre a quello che c'è adesso, a mio avviso. E quindi per le elezioni? Questo, ovviamente. Quindi siete non è possibile pensare ad ulteriori maggioranze, nuovi governi che siano tecnici di unità nazionale. Oggi c'è già il governo di unità nazionale, nel quale siamo entrati con grande senso di responsabilità e facendo tanti sacrifici anche da un punto di vista di di rapporti, di realtà, di, anche di senso di responsabilità, venendo da un'esperienza completamente diversa, e quindi non vedo alternativa. Questo già è il governo di unità nazionale a cui tutti fanno riferimento, che ha nella figura di Giuseppe Conte una persona di garanzia assoluta. Senta Crimi, le fibrillazioni sono però insomma abbastanza evidenti sotto gli occhi di tutti. L'ultima è quella che riguarda la sanatoria per i migranti, per chi deve lavorare nei campi, ma anche colf e badanti. Su questo fronte mi sembra di aver capito che tra voi e Italia Viva ci sono due posizioni diverse. Voi da che parte vi schierate? Cosa pensate che si debba fare? Guardi, quello che serve a fare emersione di lavoro nero o lotta al caporalato per noi è sempre stato, sono sempre stati i nostri cavalli di battaglia, e continueremo a fare tutto ciò che è utile in quella direzione. Che siano italiani o stranieri, il tema non è la regolarizzazione degli immigrati irregolari, ma il tema è emersione di lavoro nero. E se su quello vogliamo lavorare, è una parte, diciamo, dei testi che si che ho potuto leggere vanno in quella direzione, ok, ma se, come ho potuto leggere, c'è anche una parte di testo di intenzioni di fare una regolarizzazione, una sanatoria modello Maroni, perché vorrei ricordarlo, modello Maroni, Bossi-Fini e altri, e noi non ci stiamo. Non ci state ad una sanatoria. Senta, a proposito, insisto su questo tema, il problema viene posto soprattutto per la raccolta dei prodotti agricoli ed è un problema che riguarda anche altri paesi. Nei giorni scorsi ho letto spesso degli articoli del Guardian che raccontano come in Gran Bretagna per la raccolta dei prodotti agricoli, che è immediato, cioè che è urgente anche per loro, nonostante la Brexit hanno organizzato dei charter dalla Romania. I lavoratori arrivano con i charter, stanno 2 mesi per la raccolta e poi tornano al loro paese. Alcuni sostengono che la posizione di Italia Viva, ma anche del PD, favorevole a questa regolarizzazione dei migranti illegali, potrebbe poi tradursi di fatto in un aiuto a una campagna elettorale per Salvini. Voi che ne pensate? Sì, è possibile, assolutamente, condivido anche questa ipotesi, ma non è questo il motivo che ci spinge a dire no a questa scelta. Le dico anche che le ipotesi in campo che prevedono la concessione di permessi di soggiorno temporanei agli immigrati che erano qui e che oggi sono irregolari, secondo me non aiuta all'emersione del lavoro nero, tutt'altro, perché se noi concediamo uno status di regolarizzazione a chi è in Italia illegalmente, oggi consentiamo a queste persone di continuare a svolgere lavoro nero e di essere oggetto di sfruttamento. Noi dobbiamo sempre ricordarci che va legata all'emersione di lavoro nero. L'oggetto non sono i lavoratori, nel senso di che siano immigrati italiani, l'oggetto sono i datori di lavoro, e quindi le aziende agricole, l'agroalimentare, zootecnia, eccetera. Se hanno bisogno di lavoratori devono proporre contratti di lavoro, e vi dico che con questa situazione che abbiamo, una delle norme che abbiamo proposto e dovrebbe entrare nel decreto aprile, so che è stato il decreto maggio ormai, so che è già stata maturata, è quella di consentire anche chi percepisce sostegni, misure di sostegno al reddito, come il reddito di cittadinanza, NASPI e altre forme, di andare a svolgere questi lavori senza perdere il diritto a quel reddito, perché anche questo è un tema importante. Cioè senza perdere il diritto, nel senso che vengono pagati per quello che fanno, in quella fase si sospende. Sì, sospende. E quella cosa non va a computare i redditi che fanno perdere, quindi di fatto la NASPI continua a essere erogata, magari sospesa e poi ripresa, però non perde e non viene computata ai fini del reddito. Questa è una cosa che è già stata consolidata, sì. E di cui abbiamo tutti un accordo, diciamo, di fondo. Resto ancora un attimo sul tema e poi magari Crimi passiamo ad altro, però fatto sta che nel momento nel quale queste persone sono sul nostro territorio e tu decidi di non dare dei permessi temporanei, continueranno a lavorare in nero o a finire nell'illegalità. Insomma, forse una soluzione su questo fronte ci vuole. Infatti io ho parlato di emersione del lavoro nero, massima disponibilità all'emersione del lavoro nero, ma non accetto che vengano dati dei permessi di soggiorno temporaneo, perché è lì a maggior ragione che si insidia il lavoro nero. perché a quel punto non hai più neanche lo strumento di controllo e verifica dei motivi per cui sei in Italia, perché c'è un permesso di soggiorno. Temporaneo che può essere trasformato in permesso di lavoro, ma può, e quindi è lì che si insidia ancora di più la possibilità di sfruttamento e di lavoro nero. Quindi collegare le due cose, semmai. L'emersione del lavoro nero, guardi, è sempre stata fatta, è un'operazione che è utile in generale, anche perché porta a una maggiore sensibilizzazione anche da parte dei datori di lavoro dell'esigenza di avere anche dei contratti, che potrebbero anche diventare contratti che attraggono anche gli italiani, perché diciamocelo, anche questo forse è una visione che dobbiamo cominciare anche a raccontare in modo diverso. Stiamo andando verso una crisi forse senza precedenti, forse anche il modo, l'approccio a questo tipo di lavoro potrebbe cambiare anche da parte degli italiani. Certo. Quindi non darei per scontato che dobbiamo per forza seguire questa strada. L'agricoltura può diventare un luogo di lavoro nuovamente appetibile anche per tanti italiani. Senta, dalle cose di casa nostra uno sguardo internazionale, anche perché nella storia, diciamo, del nostro paese, non solo, le alleanze contano anche per tenere in piedi o far cadere i governi. Le chiedo molto seccamente, come per l'altra domanda, il Covid-19 ha fatto emergere brutalmente una guerra che è anche di influenza tra gli Stati Uniti e la Cina. Il Movimento 5 Stelle viene spesso sospettato di avere una particolare simpatia per la Cina, ma in questa contesa, se mai ci dovesse essere una contesa ancora più aperta di quella che già è aperta, l'Italia da che parte deve stare? Con gli Stati Uniti, che sono i nostri tradizionali alleati, o con la Cina? Mi auguro che non ci sia mai questa necessità di una contesa o di schieramento di parte, ma qualora dovesse esserci, noi siamo nella NATO, siamo dei partner e su questo non ci sono dubbi, nessuno l'ha mai messo in dubbio. Però dobbiamo riconoscere l'intelligenza di chi si rende conto, e quindi anche il ruolo che abbiamo avuto in questo caso importante come Movimento 5 Stelle, del ruolo fondamentale nell'economia mondiale che ha la Cina, della quale non si può non tenere conto. E quindi il fatto di aver portato il nostro paese a diventare un corridoio privilegiato per i rapporti commerciali con la Cina, a mio avviso è stata una scelta intelligente e che ripeterei e confermo da questo punto di vista, ma non ha mai messo in discussione il nostro appartenere all'alleanza occidentale. Perché un po' l'impressione che è circolata nelle ultime settimane è che siamo diventati la quinta colonna della Cina in Europa. Guardi, questa è appunto, come dice lei, un'impressione evidentemente che qualcuno cerca di instillare per mettere in difficoltà un lavoro commerciale di altissimo livello che consentirebbe all'Italia di, appunto, come dicevo, di diventare comunque un punto di riferimento per l'economia cinese, che comunque. E non siete voi 5 Stelle, la quinta colonna della Cina in Italia, non siete voi 5 Stelle? Assolutamente, ma assolutamente non siamo la quinta colonna della Cina, ma neanche degli Stati Uniti. I 5 Stelle sono nati attorno a delle idee continuano a lavorare. Maria, prego. Comunque lo dico a titolo di cronaca, in un recente incontro organizzato online dal Centro Studi Americani, vostri alleati di governo, il ministro Amendola segnatamente, ha detto che se ci fossero stati loro al governo, se ci fosse stato il Partito Democratico al governo quando fu firmato il cosiddetto trattato della Via della Seta, non l'avrebbero firmato. Quindi è una chiara presa di posizione diciamo dalla parte degli Stati Uniti per quanto riguarda il Partito Democratico. Senta, tornando invece alle cose europee, io ricordo che quell'accordo nasce da un percorso più lungo che era nato prima che arrivassimo noi, quindi giusto per chiarire, non è che ce lo siamo inventati noi, era un percorso molto molto lungo che trovava la sua conclusione nel periodo in cui abbiamo governato, quindi forse qualcuno dovrebbe anche andare a rivedere le sue scelte del passato. Quindi lei dice andate a rivedere i governi precedenti. C'è questa sentenza della Corte Costituzionale tedesca che è molto significativa e al di là del fatto che per il momento non mette in discussione il quantitative easing, però da 3 mesi o verranno, come dire, rassicurati i giudici tedeschi sull'utilizzo dei fondi di questo bazooka che la signora Lagarde sta usando anche e soprattutto a vantaggio dei titoli italiani, oppure la Bundesbank dice auf Wiedersehen e se ne va. Essendo questo lo scenario, ed essendo uno scenario preoccupante, Vitto Crimi, lei non pensa che sia arrivato il momento di essere pragmatici e di prendere in considerazione l'idea di utilizzare i fondi del meccanismo europeo di stabilità che verranno utilizzati, lo ribadiamo, per le spese sanitarie e senza alcuna condizione? Allora, senza alcuna condizione abbiamo visto nei giorni scorsi che non è così. Ancora non c'è nulla in questo senso. Io non credo che il MES sia lo strumento adatto, non credo ancora che serva, ma anche in termini quantitativi. Sapete che comunque le quantità di soldi che possono essere messi in campo dal MES sono veramente irrisorie. Oggi quello che ci serve, il primo intervento è quello della BCE, il primo perché quello immediato, che consente agli stati appunto di poter accedere al quantitative easing, e altro è il debito comune, o comunque la possibilità di condivisione di debito tramite il bilancio europeo, che è il recovery fund, che sono in corso di realizzazione. Io credo che il MES non sia lo strumento idoneo, e in questo momento stiamo andando avanti senza accedere al MES e non credo che ne avremo bisogno. Tutto sta anche alla reazione del nostro paese, come riusciremo ad affrontare questa fase 2. Io sono convinto che anche con questo decreto che è in corso di realizzazione importante, che prevede risorse per oltre 160 miliardi messe in campo, sarà un volano di rilancio, un primo step, ma sono comunque sempre e resto convinto della inutilità e della pericolosità dell'utilizzo e dell'accesso al MES. Non credo che la sentenza della Corte tedesca possa andare a mettere in dubbio il lavoro che sta facendo la BCE negli altri paesi, e credo anche che anche la Corte tedesca tornerà sulle proprie decisioni, perché mi sembra abbastanza strano immaginare che oggi non ci siano le condizioni per prevedere un intervento della BCE così importante. Questo è una crisi senza precedenti. Da qui a 3 mesi probabilmente dovranno completamente cambiare i parametri di riferimento sui temi della crisi economica anche in Germania, perché non sarà immune, non è immune da questo. Crimi, la questione di Matteo Bonafede, che è indubitabile che insomma qualche problema ve l'ha creato, anche perché insomma Di Matteo era un po' un'icona del Movimento 5 Stelle, e vi trovate sul piatto queste accuse al ministro di non averlo voluto mettere al DAP, non se al Dipartimento degli Affari Penitenziari. Oggi Di Matteo dice forse su suggerimento di qualche alleato, ma insomma fa sempre balenare questa ipotesi che si sia seguita la linea dei boss. Tra l'altro oggi si apprende dal quotidiano La Repubblica, sono 376 le persone scarcerate e mandate ai domiciliari per motivi di salute, tra persone, tra mafiosi piuttosto pericolosi. C'è un problema che riguarda il ministro Bonafede? No, guardi, giusto per chiarire, le persone che sono state scarcerate su decisione dei magistrati di sorveglianza, perché anche questo è da ribadire, le decisioni vengono prese dai giudici. Il ministro Bonafede come governo facciamo le leggi che i magistrati applicano, e quella legge che hanno applicato sono leggi ben precedenti al ministro Bonafede. Oggi il ministro Bonafede ha fatto un decreto legge per impedire che ciò avvenga di nuovo, perché ci siano dei percorsi molto più rigidi di pareri da avere, perché quindi un magistrato non decida autonomamente in periferia, per intendersi, nella situazione in cui si trova, senza avere dei pareri della Direzione Nazionale Antimafia. Questo è uno. Crimi, sta lavorando anche a una misura per riportare in carcere se avvenute meno le condizioni dell'emergenza. State quindi questa è una cosa fondamentale. State con Di Matteo o con Bonafede? Ma non bisogna stare né con Di Matteo né con Bonafede, facciamo solo blindare i post. Io credo che lì ci sia stata un'incomprensione. Lo stesso Di Matteo ha ammesso che secondo lui non ci sono i presupposti perché Bonafede si sia fatto influenzare dalle telefonate dei post, anche perché non avrebbe neanche chiamato Di Matteo, perché queste cose le sapeva già da prima. Quindi, anzi, nel momento in cui lo ha chiamato nella consapevolezza che stava facendo un qualcosa che poteva mettere in difficoltà i boss di mafia, e lo ha fatto volontariamente, perché cioè, è impensabile che uno pensi di proporre a Di Matteo un ruolo di primo piano, qualunque esso sia, nel ministero, e che questa cosa faccia felice i boss. Grazie Vito Crimi. Grazie a voi. Buona giornata. Salve, ci fermiamo con un filo di ritardo e poi parliamo di turismo. Abbiamo anche un ascoltatore sul tema della regolarizzazione. Lo voglio ascoltare, Luciano, che ci ha chiamato la provincia di Modena. Resti là, Luciano, a tra un attimo. Mattino. Cara Maria, prima di andare dai nostri ospiti, ce lo sentiamo Luciano dalla provincia di Modena. Va Luciano, via. Sentiamolo. Sentiamo, buongiorno. Buongiorno. Prego. Veloce, buongiorno. Velocissimo più possibile. Io volevo intervenire prima cosa sul discorso del, visto che è un'azienda agricola che presto comincerà la raccolta di ciliegie, che non è vero che c'è bisogno di regolarizzare. Gente che viene da fuori, parte che non vuole dire niente, ci sono tantissimi italiani giovani, di studenti, sì, studenti, vari, mi telefonano tutti i giorni, pensionati che non sanno come tirare avanti. Che la chiamano, le telefonano Luciano? Le telefonano per dire. Media di 5 persone al giorno, che non è mai successo. E dalla fase dei 70 anni arrivare alla fase dei 17-18 anni, che perché non sanno come fare per prendere due soldi e tirare avanti. Noi siamo messi che non sappiamo esattamente come dobbiamo comportarci, perché la cosa più semplice sarebbe fare i famosi voucher. Uno ha bisogno di lavorare, cacchio, ti do i soldi che vai. Un'altra cosa, senta, che Luciano, ma secondo lei allora cosa c'è dietro questa proposta della ministra Bellanova di assumere di regolarizzare 600.000 migranti? Non dico esattamente quello che penso, perché è meglio che non lo dica. Non voglio diventare volgare, che non ne ho voglia. Però c'è qualcosa che non quadra, perché quando sento, come ieri mi ha telefonato un pensionato che è disposto a fare anche 40 km, dormire in macchina per un mese per dare i soldi ai suoi figli, che non sono aiutati a tirare avanti, io credo che c'è qualcosa che è uno Stato che non vale, vale poco. C'è qualcosa che non funziona. È una cosa che mi viene male. Ho dei figli anch'io, pensare che può capitarmi la stessa cosa dopo una vita che lavoro da 60 anni, da 50. Prima avevo anche mucche, poi non capisco il fatto che si sembra che lavorare in agricoltura sia quasi un'umiliazione. Io credo che invece sia il mestiere più importante al mondo, perché senza quello non si mangia, credo. C'è gente che io adesso no, perché l'ho smesso, che avevo mucche, e lì non c'è Natale, non c'è pasto, lo sappiamo, lavoro e basta. Lo sappiamo. Allora, Luciano, la ringraziamo. Discorso chiarissimo. Tra l'altro, adesso andiamo su un settore, anche questo, ad alto tasso di stagionali. Parliamo del turismo con Giorgio Palmucci, presidente dell'ENIT, l'Ente Nazionale del Turismo. Buongiorno Palmucci, benvenuto. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. E Dario Nardella, sindaco di Firenze, sempre in merito di alti tassi, città ad alto tasso di turismo. Nardella, eccoci. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Maria, prego. Buongiorno Palmucci, buongiorno Nardella. Comincerei dal presidente dell'ENIT. Allora, c'è il rischio che alcune aree europee, io vado subito alla competizione, perché è quello che può portarci via ulteriormente dei turisti. Perché si dice quest'estate ciascuno faccia il turismo in casa propria perché ce n'è bisogno, però c'è il rischio che qualche paese europeo con un passaporto sanitario, vedi la Croazia, riesca ad attrarre dei turisti. La domanda è semplice: mentre si pensa a dei buoni da dare alle famiglie perché facciano le vacanze in Italia, state studiando qualcosa per capire se un po' di turismo straniero si può comunque portare quest'estate? Parlo di passaporto sanitario, parlo di frontiere che si riaprono almeno in Europa. Che cosa ci può dire su questo fronte? Guardi, sicuramente è vero che abbiamo visto che la Croazia sta facendo questo accordo con la Repubblica Ceca. Comunque il ministro Franceschini ha incontrato i ministri di turismo di tutti i paesi europei e quindi si sta lavorando, so che stanno lavorando proprio su quali politiche, quali solidarietà potrà comunque avere quest'estate, sapendo che sicuramente non ci sarà questo grande arrivo di turisti stranieri, perché in questo momento non si ha ancora un'idea perfettamente chiara di quella che sarà l'evoluzione della pandemia. È vero che per un paese come la Croazia ha una grande differenza rispetto all'Italia, che l'Italia ha circa un 50% di turisti italiani e un 50% di turisti stranieri, mentre invece per la Croazia di turismo domestico non ne ha. Ciò non toglie che il ministro Franceschini e il ministero, anche il sottosegretario Bonaccorsi, stanno proprio lavorando su degli accordi bilaterali con altri paesi, in modo particolare con i paesi dai quali provengono un numero importante di turisti, anzi il numero più importante di turisti verso l'Italia, come la Germania. E per cui da questo punto di vista vari paesi che sono paesi di destinazione turistica stanno lavorando per facilitare e favorire quello che è lo spostamento dei turisti stranieri dai paesi limitrofi, in maniera tale da non perdere completamente questa parte importante del turismo nel nostro paese. Dario Nardella, sarà grigia quest'anno, mi sa, a Firenze. Come vi state organizzando? Ma sarà durissima, sarà molto dura, non solo per Firenze, purtroppo per molte altre città d'arte e turistiche, anche città basate sul congressuale, sul fieristico, sul turismo business, non dimentichiamolo. E noi ora ci stiamo organizzando per rispondere al meglio all'iniziativa del governo e del ministro Franceschini sui voucher. Quindi preparare una scontistica che sia equivalente al voucher che sarà dato ad ogni famiglia, che mi pare almeno ufficiosamente sia intorno ai 500 euro, proprio per rafforzare la destinazione Firenze. Però è chiaro che il 2020 sarà molto duro, noi puntiamo sul turismo domestico, non possiamo fare diversamente, mentre nel 2021 ci dobbiamo attrezzare per recuperare il turismo internazionale. Però qui lo dico anche da sindaco: o noi abbiamo un piano nazionale sul turismo o sarà difficilissimo recuperare il gap rispetto ad altri paesi. Purtroppo dal 1993, quando ci fu il referendum per l'abolizione del Ministero del Turismo, il turismo ha ballato tra un ministero e l'altro e non è mai riuscito ad essere un elemento centrale di una strategia di paese. Non dimentichiamo che ora le competenze sono anche regionali. Anche quello era il punto, Nardella. No, c'è anche una frammentazione regionale in termini non solo di promozione di strategia fortissima. Sì, io sono d'accordo con lei, lo abbiamo visto anche in questo periodo di emergenza sanitaria, la frammentazione delle competenze regionali è stato uno degli elementi problematici di questa emergenza. Allora, visto che anche il turismo oggi è in emergenza, è necessario che ci sia una cabina di regia centralizzata, una strategia paese e la predisposizione della più grande campagna di promozione del nostro paese a livello internazionale mai fatta dal dopoguerra ad oggi. Dentro questa cornice ogni città gioca le sue carte, quindi anche Firenze giocherà l'appeal che ha a livello internazionale, ma in questo momento ovviamente non possiamo che puntare sugli italiani, e l'idea che gli italiani possano riscoprire l'Italia secondo me è un'idea affascinante e anche molto efficace. Agli italiani piace viaggiare, dare l'opportunità e anche le risorse per viaggiare nelle tante bellissime destinazioni del nostro paese è la giusta e forse l'unica strada che abbiamo almeno in questi mesi del 2020. Le faccio una domanda molto rapida, Nardella. Qualche giorno fa, in uno di questi webinar che si tengono in questi giorni, mi è capitato di mettere in relazione il fatto che i nostri studenti non hanno una frequentazione scolastica, ce l'hanno online, ma è un'altra cosa, da mesi, con i voucher dati alle famiglie. Secondo lei potrebbe essere una buona idea quella di rafforzare la decisione delle famiglie di frequentare le città d'arte, Firenze, Roma, ma anche le più piccole, legandola a una sorta di crediti per gli studenti, cioè per i loro ragazzi che magari visitando appunto il Battistero di Parma o il meraviglioso centro storico di Lecce potrebbero fare un corso almeno di storia dell'arte. Secondo me è un'idea molto molto interessante e valida. Anche me la regalo. La prendo molto volentieri, un'idea innovatrice che rappresenta anche un passo in avanti rispetto alle classiche visite studentesche che si fanno sempre in primavera, che sono tutte saltate come sappiamo, perché visitare seriamente una città d'arte piccola o grande è anche una grande esperienza formativa che arricchisce il bagaglio culturale. E poi da ultimo non dimentichiamo che lei citava appunto Roma, Firenze, noi abbiamo delle capitali della formazione, università straniere che dobbiamo attrezzarci per rilanciare nel 2021, perché l'Italia ha tantissimi margini per scommettere tra virgolette sul turismo studentesco, cioè su quella generazione di giovani che da tutto il mondo possono venire in Italia a studiare. Quindi la sua idea secondo me vale doppiamente, sia in questa fase per i giovani italiani, ma per il futuro per i giovani di tutto il mondo. Bene, allora ne parli con i ministri competenti, Azzolini e Franceschini. Allora, ci proverò, grazie. Allora, i numeri ci dicono, e Palmucci li avete forniti voi ieri, che il 2020 vedrà un meno 40% dei visitatori totali nazionali e internazionali rispetto al 2019. Un calo di 47 milioni di visitatori per una minor spesa di 65 miliardi di euro. Questa la dimensione, per chiarirlo bene anche agli ascoltatori, di che cosa stiamo parlando. Ascolti, è chiaro che sarà ben difficile, possiamo pensare, come diceva Maria Latella, passaporto sanitario, tutto quello che vogliamo, però è chiaro che quest'anno il turismo internazionale, come lo stesso Nardella ci diceva, ci sarà molto poco e la vostra attenzione si dovrà concentrare sul come far muovere gli italiani, almeno quelli che hanno capacità di spesa. C'è un fronte su questo sul quale vi state attrezzando, perché insomma forse dovrete anche cambiare un po', no, la vostra modalità operativa? Vabbè, sicuramente dobbiamo cambiarla, tant'è che avevamo ovviamente un piano 2020 che prevedeva una crescita valore rispetto ai due anni precedenti, che sono stati due anni straordinari e che puntavano soprattutto sulla crescita di un turismo proveniente anche da paesi dai quali provengono ancora un numero di turisti abbastanza limitato. Dobbiamo cambiare completamente, per cui stiamo cambiando completamente rotta, stiamo rivedendo completamente questo piano, stiamo lavorando perché comunque, come ha detto giustamente il sindaco Nardella, il titolo quinto della Costituzione affida alle regioni il turismo, ma stiamo lavorando in maniera estremamente stretta con le regioni, ma anche con parecchi comuni di destinazione turistica, in maniera tale proprio da rivedere completamente, essere pronti, perché bisogna essere pronti per il 2021, perché ci sono delle stime pessimistiche che pensano che comunque non si potrà raggiungere i risultati del 2019 per almeno 2 o 3 anni. Io ritengo che bisogna essere un pochino intanto più ottimisti e allo stesso tempo lavorare fin da subito per mantenere il dialogo e il rapporto in questi paesi, tant'è che siamo riusciti a tenere aperti tutti i nostri 28 uffici nel mondo in maniera tale da monitorare e da raccogliere quei dati che lei ha indicato e che pubblicheremo ogni 15 giorni in maniera tale da mettere a disposizione sia delle regioni, delle istituzioni, sia degli operatori quelli che sono dei dati che permettono poi prendere delle decisioni. E adesso in questo momento stiamo rivedendo questo piano, stiamo proprio lavorando su quella che è una promozione del paese Italia nei confronti degli italiani, che molto spesso non conoscono così bene l'Italia come magari la conoscono altri, i tedeschi, quando vengono in Italia. Per cui è importante che in questo, per quest'estate, per questo autunno, lavoreremo proprio per promuovere l'Italia, l'Italia che non è soltanto le grandi destinazioni, ma sono anche quelle destinazioni meno conosciute, ma che magari permetteranno anche di garantire quelle misure di distanziamento sociale che sarebbe stato più difficile per l'anno scorso in quelle destinazioni di overtourism. Quindi sì, tenga conto, lo dico sempre, ma abbiamo 55 siti UNESCO e più del 60% sono in comuni che hanno meno di 5.000 abitanti, ciò significa che c'è tanto da scoprire, bisogna raccontarlo e noi lo faremo raccontandolo insieme, ripeto, con le istituzioni che sono dedicate. Senta Presidente Palmucci, il settore del turismo vorrebbe una dichiarazione dello stato di crisi, il Ministro Franceschini non ritiene adeguato alla crisi straordinaria una semplice dichiarazione dello stato di crisi, mi dice due o tre cose che voi considerate essenziali, urgenti da fare nei prossimi diciamo 50 giorni per ridimensionare o ridurre il danno terribile che il turismo italiano subirà. Ma veda, quello che stiamo vedendo e come ha indicato anche il sindaco Nardella è in emanazione un decreto nei prossimi giorni che dovrebbe che prevede dalle informazioni che abbiamo, prevede quindi una serie di misure di sostegno alle imprese, di sostegno alla domanda, e la cosa importante è ci sono stati anche nel decreto Cura Italia, nel decreto liquidità, una serie di misure proprio per affrontare l'emergenza. Allora, affrontata comunque l'emergenza e fatto in modo che le imprese siano in grado di sopravvivere a questo periodo così difficile, così catastrofico, è importante che si riesca rapidamente a comprendere le possibilità di spostamento interregionale, perché questo è estremamente importante per poter dare la possibilità agli albergatori, alle strutture ricettive, agli operatori, tour operator, alle agenzie di viaggio, di sapere anche in che modo gli italiani si potranno spostare, perché se dobbiamo puntare su un turismo domestico bisogna essere in grado di comprenderne gli spostamenti e di avere l'idea chiara, perché ci sono alcune regioni nelle quali chi abita in quella regione può andare in vacanza in quella regione, ma ce ne sono altre che invece devono per forza spostarsi, per cui bisogna avere le idee chiare ed è urgente, perché altrimenti si rischia di perdere l'estate. E in secondo luogo devono essere chiare quelle che sono i protocolli che devono essere applicati per poter garantire quella sicurezza che ormai, che siano per gli italiani, che sia per qualsiasi turista da ogni parte del mondo e in qualsiasi parte del mondo, ormai il sogno della vacanza deve essere accompagnato da una sicurezza che almeno durante le vacanze non devi preoccuparti, non deve essere la tua prima preoccupazione quella dell'essere immune o dell'essere lontano da un contagio. Sì. Per cui sono necessari avere delle idee molto chiare per gli albergatori, per i ristoratori, per i trasportatori, in maniera tale per chi trasporta in bus, in treno, in aereo e quant'altro, perché altrimenti anche questo rende molto difficile riuscire a dare quella garanzia di tranquillità che dopo anche questo periodo di quarantena siamo tutti ansiosi comunque di prendere, staccare a un certo punto, di riuscire a vivere senza essere ossessionati, aspettando ovviamente non se ma quando ci sarà il vaccino, però nel frattempo queste sono le cose più importanti che bisogna sapere, altrimenti si blocca tutto. Questo è un tema enorme, quello che ha sottolineato Palmucci, che molti ascoltatori sul quale molti ascoltatori che operano nei settori ci sottolineano, e cioè ci dicono: non si può arrivare all'ultimo minuto a dirci con quali protocolli dobbiamo aprire, ossia no, come devo sanificare, quante volte, che distanza tra i tavoli, i letti come devono essere fatti, gli ingressi dell'albergo. Nardella, lei che ha contatti costanti, no, con il tessuto imprenditoriale della sua città, immagino che questa sia una questione anche abbastanza urgente, tutto sommato. Sì, è dirimente, va risolta immediatamente, perché noi ci siamo scornati, mi passi il termine, sulla data di apertura, ma il problema è che ci sono molte imprese che non sanno ancora quali saranno i costi della riapertura, non solo la sanificazione. Le pongo la questione degli affitti, la questione degli affitti commerciali che riguardano alberghi, ristoranti, diciamo impattano pesantemente sulla filiera del turismo, è micidiale, perché aziende che sono state costrette a chiudere, giustamente per l'emergenza sanitaria, però devono comunque pagare canoni di affitto altissimi. Vi lascio pensare il valore dei canoni di affitto nelle città d'arte, ma anche nel centro di Milano, non parlo anche di città del business. Questo punto deve essere assolutamente risolto nel decreto. Noi da Firenze abbiamo lanciato una proposta delle commissioni di conciliazione con un rappresentante dell'ordine commercialisti, un rappresentante della città metropolitana e con il proprietario e l'affittuario. Se si trova un accordo, allora attraverso la leva fiscale, pensiamo all'IMU, si può dare un vantaggio al proprietario. Se invece quell'accordo non si trova, devono scattare invece, come dire, delle forme di aggravamento della posizione fiscale, perché volontariamente, sto verificando, non si riesce a risolvere nulla. Io ho aperto un tavolo tra proprietari e imprese ed è molto difficile, quindi questa è un'emergenza. Anche questa, Nardella, dobbiamo veramente chiudere, la ringrazio, però siamo riusciti quantomeno a sottolineare anche questo problema. Grazie a Daniel Nardella, sindaco di Firenze, Giorgio Palmucci, presidente dell'Ente Nazionale del Turismo, grazie ad entrambi. Buon lavoro, ne avrete, credo. Cara Maria, ci sentiamo domani alle 8:20, ovviamente. A domani. Con tutti gli altri alle 6:30, ciao.